Bon goût. MC da copertina fai la prima ballerina e ti intrometti nella linea. Cammina, sì, calmi, no, prego. Animati al minimo, amami almeno, non imitarmi. Capisci o non mi capisci mica, scema l'amica, punta su te, si lecca le dita. Vi siete dimenticati di porre il limite dei tie da avete scelto. Le più fichette su cui meno mettere le mani o mano mettere. Lavoro facile e sicuro, pone mente. Indipendentemente dal tuo tempo ed io idem con il sempre. Pure a noi fa gola senza fare niente. BGZ Dan, orsi di primavera, mondo la manopola, si ingolfa. Pischi, deciditi, li aspetti o no le rondini, che se una non fa, due eia. Prima rappi e poi papi, sbaffa per dolce vita, si malla bardente rapper da commedia. Spiriti di fichi d'India, ti pungi, piangi e sbatti pugni, bello spiedo e non mangia. E ciao nanè, sono angoli di grandine garantita. Dolce vita, si malla bardente rapper da commedia, spiriti e basta. No, fallo un'altra volta, aspetta. No, vabbè, non c'è tempo. Ora lo sai che il nervosismo è dato dal vino cattivo. Mi stappo, mi giro, pollo, mi stino. Di identità ne ho tante. E tentativi, tento. Ti casca l'occhio. Leviti due litri di sciroppo e molla l'occhio. Voglio il doppio di metà di doti, Nancy. Autodidatta, abitudini e metodi per me. Tu ridotto allo stato di idiota. Cerchi di andare a una ruota, ma ti va bene una volta e poi l'altra. No scorta, c'è olio per strada. E tu fai lisci da record che non guardarti uno spreco, risate grasse dal vero. Ti farò un ritratto sul mio compensato preferito. Poi lo metto a fuoco e ti riscaldo. Mi hai capito? Da. Ok. Dammi da, son finiti i tempi delle Adidas. Sembra sfilata di moda, non rappresenta. Dimmi no, dimmi dammelo. Nel giorno del tuo compleanno insieme non stanno. Non vanno, oh, ripescato da giù. Cantina piena di movie, mi pare. Compare sta qua, che si beve stasera, pago io. Stasera pago io. Ora lo sai che il nervosismo è dato dal vino cattivo. Mi stappo, mi giro, pollo, mi stino. Di identità ne ho tante. E tentativi.